Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. Ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Ci siamo appassionati ad una vicenda che oggi seguiamo per il terzo giorno consecutivo. Possiamo dirlo a questo punto, dopo due giorni senza sorta di smentita. Un omicidio-suicidio misterioso, quello di un giovane ragazzo, Niki Aprile Gatti, di cui le cronache nazionali hanno parlato pochissimo, forse niente, qualcosa la cronaca locale, morto il 24 giugno 2008 nel carcere di Sollicciano. È morto 15 ore dopo aver detto alla magistratura e agli inquirenti: «Ok, collaboro, vi do una mano». Collaboro per cosa? Questo ragazzo, giovane imprenditore 26enne di Avezzano, era proprietario di alcune quote azionarie di società sanmarinesi che operavano nel campo della telefonia. La procura stava indagando su alcune truffe milionarie. Abbiamo sentito la mamma di Niki Aprile Gatti raccontarci tutte le stranezze di questo omicidio-suicidio e aver anche adombrato un'ipotesi inquietante, a mio giudizio, vale a dire che comunque le imprese nelle quali operava Niki Aprile Gatti avessero collegamenti con l'inchiesta avvocata a Luigi De Magistris, la cosiddetta inchiesta Why Not, di cui sto scrivendo da parecchie settimane sul mio blog e ne ho scritto per mesi, per anni, anzi posso dire sul Sole 24 Ore, di cui sono inviato. Quindi andatevi a leggere anche l'ultima puntata dell'inchiesta che ho dedicato a Prodi, l'entourage di Prodi e la loggia di San Marino. Allora, abbiamo sentito dalla signora Gemini come si sarebbe suicidato il figlio: con un laccio delle scarpe. Sappiamo per certo che lacci delle scarpe in una cella non si possono avere, non si possono detenere. Si sarebbe suicidato in questo modo, si sarebbe suicidato 15 ore dopo aver detto «voglio collaborare». La mamma non crede al suicidio, la mamma crede ad un omicidio. Abbiamo sentito il garante dei diritti dei detenuti della regione toscana, Franco Corleone, invece propendere più per l'ipotesi di omicidio, così come del resto anche dai racconti che lui ha preso e ha trasferito alla procura, racconti del direttore dell'istituto e del comandante della polizia penitenziaria che gli hanno raccontato che Niki Aprile Gatti si sarebbe suicidato alle 11 di ritorno dalla ora di passeggiata, dai passeggi, come si dice in gergo. La mamma dice: no, mio figlio è morto alle 10 ed è morto con un pigiama, non poteva essere andato ai passeggi. Non lo fa nessuno del resto, forse qualche extracomunitario. Abbiamo sentito Corleone che ha detto, e da qui ripartiamo, ma se è un omicidio io dico che si indaghi, la procura si dia da fare, ma un omicidio messo in fretta e in furia su in un giorno? Massimo Giuliano, avvocato della famiglia Gemini Gatti, buongiorno intanto. Salve, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, un giorno in fretta e in furia, chi avrebbe dovuto decidere l'omicidio di Niki Aprile Gatti? E poi veramente un giorno aveva a disposizione chi avrebbe voluto far fuori Niki Aprile Gatti e con lui i suoi segreti? Guardi, noi abbiamo presentato evidentemente opposizione alla richiesta di archiviazione, siamo in attesa appunto della fissazione dell'udienza. Sicuramente, ecco, noi riteniamo che si sia trattato di un omicidio con simulazione di un suicidio, un omicidio che sicuramente si poteva organizzare non solo in un solo giorno, ma nei giorni in cui il detenuto è arrivato dal carcere fino al decesso. Quindi quanti giorni sono passati? Quindi sono passati praticamente dall'ingresso dal 19 al 24. Quindi sono 7 giorni, una settimana più o meno. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Faccio come i bambini, conto sulle dita di una mano, sono 6 giorni. Sì, tra l'altro proprio la scarsa attività investigativa espletata dalla polizia giudiziaria penitenziaria ci ha comunque consentito di far emergere quelle contraddizioni sia nelle dichiarazioni testimoniali degli stessi compagni di cella che della polizia giudiziaria stessa, e che dovranno necessariamente essere chiariti appunto nel giudizio dinanzi al GIP e nella successiva attività di indagine. Ecco, tra le tante stranezze, avvocato Giuliano, noi abbiamo sentito anche raccontato dalla signora Gemini, ricordiamo la mamma coraggiosa, coraggiosissima di Nick Aprilegatti, che vuole giustizia per suo figlio. Vi ricordo il sito sul quale avere altre notizie, nickaprilegatti.blogspot.com. Ebbene, dicevo, la signora Gemini ci ha raccontato un episodio, ma lo definisco curioso, ma in realtà è inquietante. Nicky Aprilegatti, dalla sua casa di San Marino, avrebbe scritto a se stesso presso l'istituto di Sollicciano: caro Nicky Aprilegatti, sono Nicky Aprilegatti, ti prego cambia avvocato, prendine un altro. E quel telegramma gli è stato consegnato in cella. Non è strana questa cosa, avvocato Giuliano? È molto strano, però devo precisare un fatto. Prego. Il telegramma è stato spedito con mittente Nicky Aprilegatti, ma è stato firmato da un altro soggetto. Chi è questo soggetto? Ovviamente non ho possibilità di dirlo, in quanto appunto ci sono attività investigative che comunque sono a conoscenza dell'attività inquirente. Quindi... Ah, ecco, quindi comunque lei può dirci che qualcosa di strano c'è. L'avesse firmato Nicky Aprilegatti o l'avesse firmato qualcuno che magari lei non può svelarci chi è stato, ma che magari lo ha indotto a scriverlo, ecco, questo possiamo asserirlo, insomma. Assolutamente, soprattutto contro la volontà della stessa signora, degli stessi genitori. Ecco, e perché era stato consigliato quell'avvocato? Che non nominiamo nemmeno perché non ce ne frega nulla di saperlo. Assolutamente, questo bisognerà chiederlo poi alla persona che ha indicato questo avvocato. E questo è giustissimo. Allora, veniamo... Che ripeto è un nome al quale si può risalire tranquillamente. Benissimo. Avvocato Giuliano, veniamo ad un altro punto secondo me molto, molto importante, che ho chiesto alla signora Gemini, che giustamente quello che sta facendo secondo me è già eccezionale, perché sta smuovendo mezzo mondo per cercare di avere giustizia per un figlio morto, e chi di noi genitori non lo farebbe. La signora Gemini ha detto: suppongo, non ho ovviamente certezze, magari le avesse, suppongo che mio figlio si fosse andato a mettere in un giro probabilmente più grande di lui. C'erano stati anche degli articoli sulla stampa locale, anche sbagliati, in cui lo si nominava come mega proprietario milionario di imprese, società. Così non è, perché aveva al massimo il 9% di alcune di queste società, con quote azionarie irrisorie di circa 7.000 euro per quota, se non ricordo male. Ma non è questo il punto. La signora Gemini ci ha detto: io ho l'impressione che qualche collegamento con la vicenda Why Not può esserci, quindi qualcuno che avesse interesse a farlo fuori può esserci. Allora le chiedo, Giuliano, secondo lei è l'avvocato, quindi le carte deve studiarsi, deve andarsela a vedere, leggere, studiare le carte della procura di Salerno, studiare le carte della procura di Catanzaro, quali possono essere i collegamenti con la vicenda Why Not? Anche su questa domanda io non posso entrare nel merito. Le posso soltanto dire però che dietro alla vicenda di Aprilegatti c'è una costellazione di società, ci sono una serie di nomi ricorrenti e probabilmente il ricorrere di questi nomi è frequente anche nell'altra inchiesta. Allora, diciamo così, ricapitoliamo la vicenda. I nomi che sono all'interno di queste società per le quali lavorava Nicky Aprilegatti, De Magistris li ha incontrati nel suo cammino. Alcuni di questi. Allora, le faccio un'altra domanda, scusi avvocato, ma vista l'impenetrabilità della banca dati, delle banche dati di San Marino, lei come è riuscito a ricostruire la catena societaria? Non sono tutte di San Marino le società, sono localizzate anche in altri paesi dove è possibile accedere con degli incarichi esterni. Altri paesi nell'Europa. In altri paesi dell'Europa, però diciamo così che il punto più difficile è proprio San Marino. Evidentemente, perché lì ci sono società anonime, per cui è impossibile, diciamo, se non dietro una rogatoria internazionale, conoscere i reali proprietari delle quote. Assolutamente. Ecco, quello che lei ci ha raccontato è molto interessante, anche perché mi pare di capire che non può dirci di più, perché ovviamente lei l'ha raccontato agli inquirenti, giusto? Assolutamente. Esattamente, però diciamo che le ipotesi che aveva fatto la signora Gemini non erano così campate per aria, il che spiegherebbe anche perché qualcuno poteva avere interesse a far sparire una persona, indipendentemente dal fatto, direi a questo punto, che fosse o meno a conoscenza di segreti. Sì. Quali saranno i prossimi passi che voi farete nei confronti della magistratura italiana e no? come le dicevo, abbiamo presentato opposizione alla ratificazione, siamo in attesa della fissazione dell'udienza per discutere sul proseguimento delle indagini. È una tappa fondamentale dal quale poi si partirà per le ulteriori richieste. Benissimo. Prego, aggiunga pure, avvocato. Ecco, in questa ulteriore fase la magistratura dovrà fare la parte di attrice, posto che dovrà iniziare quelle rogatorie internazionali necessarie al fine di conoscere la reale proprietà delle società estere. Senta, avvocato, lei lo sa che la rogatoria internazionale chiesta da De Magistris è sparita nel porto delle nebbie di San Marino? Non se ne sa più nulla? Voi avete qualche speranza in più? Noi ci speriamo e ci contiamo soprattutto perché abbiamo avuto contatti con la gendarmeria sanmarinese e in linea di fatto si sono messi a disposizione nell'eventuale risposta ad una richiesta di rogatoria internazionale che non è ancora giunta. Benissimo, io ringrazio l'avvocato Giuliano per averci raccontato alcuni episodi e alcuni tasselli fondamentali di questa ricostruzione che abbiamo fatto. Siamo al terzo giorno della morte di Nicky Aprile Gatti, omicidio o suicidio, speriamo che presto venga scoperto, nel carcere di Sollicciano il 24 giugno 2008. Prometto ai nostri radioascoltatori e agli amici del blog che continuerò a seguire questa storia anche sul blog, non solo, ma torneremo in radio nelle prossime settimane a parlarne. Grazie in regia Fabio Cantadori, in studio Laura Fagin e Francesco Di Bruno, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.